L'indizio dice: se un numero diviso per 2 lascia un resto diverso da 0, il nodo corrispondente è da sciogliere. Altrimenti, se non lascia resto, il nodo non va toccato. Quale tipologia di numeri, se divisa per 2, lascia un resto diverso da 0?